auguro amore di soffrire come un cane, ti auguro amore di soffrire come me. Tutto torna indietro, darling, tutto torna indietro. Ed è alquanto sconfortante, dura trovare qualcuno interessante. È alquanto sconfortante crederlo e poi non resta niente. Ah beh, che mi frega, provo gusto ad essere strega. Io, pesce strano, metà pinne, metà umano. Oh, ah, hey, quanto hai sensi, magnetismo ed il tuo charme. Li disperda l'esperienza prima che li sciolga io. E sì, perché tutto torna indietro, caro, tutto torna indietro, tutto torna indietro, yes, tutto torna indietro. Hey, ti giuro amore, ho un cuore buono, ti giuro amore, sono un buon partito. Tutto torna indietro, darling, tutto torna indietro, oh yes, tutto torna indietro, mio caro, tutto torna indietro. Ed è alquanto sconveniente inondarmi d'emozione, è alquanto rivoltante sparire poi dalla circolazione. Vabbè, grazie del male, mi mancava in collezione. E ti avrei capito se mi avessi detto che